La zia Cila scandalizzò la città abbandonando l'uomo che aveva sposato e con cui aveva vissuto per 7 anni, senza dare spiegazioni a nessuno. Un giorno qualsiasi la zia Cila prese i suoi 4 figli e li portò a vivere nella casa che con tanto buon senso le aveva lasciato in eredità sua nonna. Era una gran lavoratrice e aveva passato a rammendare calzini e a cucinare fagioli con carne di maiale tanti anni, che impiantare una fabbrica di abbigliamento all'ingrosso non le costò più fatica di quella a cui era abituata. Arrivò a fornire i 2 negozi più importanti del paese. Non ammetteva discussioni sul prezzo e una volta all'anno andava a Roma e a Parigi per cercare nuove idee e liberarsi dalla routine. La gente non approvava il suo comportamento, nessuno capiva come avesse potuto lasciare un marito che aveva la bontà dipinta negli occhi. In cosa poteva averla urtata quell'uomo tanto cortese che baciava la mano alle signore e si inchinava premurosamente davanti a qualsiasi persona per bene? Il fatto è che è una civetta, dicevano alcuni, irresponsabile, dicevano altri, vanitosa, e strizzavano un occhio. Ma la zia Cila non perdeva tempo in discussioni. Come se non sapesse, come se non si accorgesse che perfino nell'intimità del salone di bellezza c'era chi non riusciva a capire il suo strano comportamento. Un giorno si trovava proprio nel salone di bellezza, circondato da signore che allungavano le mani per farsi dipingere le unghie, le teste per farsi arricciare i capelli, gli occhi per farsi spazzolare le ciglia, quando entrò il marito di Consuelito Salazar con una pistola in pugno. Si gettò urlando su sua moglie e afferrandola per i capelli la sbatté contro il batacchio di una campana, fra insulti e dichiarazioni di gelosia, accuse di infamia e maledizioni per tutti i suoi parenti acquisiti. Il tutto con una ferocia tale che le tranquille signore corsero a nascondersi dietro i caschi, lasciando sola Consuelito che piangeva atterrita con un filo di voce in balia della furia di suo marito. Fu allora che la zia Cila uscì dal suo angolo, agitando le unghie appena pitturate. Sparisca di qui, intimò all'uomo, affrontandolo come se per tutta la vita non avesse fatto altro che disarmare pistoleros nelle taverne. Non spaventa nessuno con i suoi urli. Vigliacco, figlio di una buona donna. Siamo stufe, non abbiamo più paura. Mi dia la pistola se ha un uomo. Che uomo coraggioso! Se ha qualcosa in sospeso con la sua signora, si rivolga a me che sono la sua rappresentante. È geloso? E di chi sarebbe geloso? Dei 3 bambini che Consuelo passa la vita a contemplare? Dei 20 tegami tra cui vive? Dei suoi ferri da calza, della sua vestaglia da casa? Povero Consuelito, che non vede al di là del proprio naso, che cerca di dare un senso a cose da nulla. Proprio a lei viene a fare una piazzata qui. Potremmo metterci tutte a strillare come conigli spaventati. Nemmeno per sogno. Vado a fare le sue scenate altrove. Fuori di qui. Via! Via! Disse la zia Cila, agitando le mani e avvicinandosi all'uomo, che era diventato viola dalla rabbia e che, ormai senza pistola, stava per scatenare nel salone un sacco di ilarità. A mai più rivederci, signore! Lo finì la zia Cila. E se ha bisogno di comprensione, portate a mio marito. Con un po' di fortuna magari riesce anche lei a farsi compatire da tutta la città. Lo condusse fino all'uscita a spintoni e dopo averlo gettato sul marciapiede chiuse la porta a tripla mandata. Figli di buona madre, sentirono dire, quasi tra sé e sé alla zia Cila. Un applauso l'accolse al suo ritorno e Cila fece una profonda riverenza. Finalmente l'ho detto, mormorò poi. Così è successo anche a te, disse Consuelito. Una volta, rispose Cila con un gesto di vergogna. Dal salone di Nesita la notizia si sparse rapida e generosa come il profumo del pane. E nessuno parla più male della zia Cila Huerta, perché ci fu sempre qualcuno, o un'amica di un'amica di qualcuno, che quella mattina si trovava nel salone di bellezza, pronto a impedirlo. Una sera la zia Rosa guardò sua sorella risplendere, ancora raggiante per qualche ragione che lei non riusciva a immaginare. Per ora ascoltò le sue parole una a una cercando di capire da dove venissero. Non indovinò. Seppe soltanto che quella sera sua sorella era meno brusca con lei. Si comportava come se finalmente le avesse perdonato la sua vocazione per preghiere e manicaretti, come se avesse deciso di non ridere mai più della sua irredenta zitellagine, della sua testardaggine catechistica, della sua noiosa devozione alla Madonna del Carmine. Così se ne andò a dormire in pace, dopo aver recitato il rosario e inzuppato il biscotto al burro in una tazza di cioccolata. Chissà come sarebbe stato il suo primo sogno quella notte. Se qualcuno l'avesse vista paffuta e sorridente nella sua camicia da notte, l'avrebbe paragonata a una bambina di 5 anni. Tuttavia, nella testa ricciuta della zia Rosa entrò quella notte un sogno insospettato. Sognò che sua sorella andava a un ballo in maschera, che usciva senza fare rumore e ritornava al centro di un'esplosione di allegria. Era l'anima di un gruppo di uomini in maschera che ridevano con lei, impegnati soltanto ad accompagnare la felicità che le circondava per tutto il corpo. Felice si metteva e si toglieva una maschera veneziana, di quelle con tanti colori e con una luna in cima alla testa e una bocca delirante. All'improvviso si mise a ballare di fronte alla zia Rosa, la quale, seduta nella poltrona principale della sala, smise di mangiare biscotti. Tale era la meraviglia che era entrata nella sua casa. Sua sorella sollevava in alto le gambe per ballare un cancan che gli altri canticchiavano, ma al posto dei mutandoni di pizzo delle ballerine di cancan portava una minuscola gonnellina che saliva compiacente mostrando le gambe sode e il pube cambiato di posto. Perché nel punto in cui si trovava il pube, le si era dipinta una decorazione di foglie gialle, verdi, purpure che palpitavano come fossero il centro del mondo. In cima a una gamba brillante e soffice c'era il ciuffo di peli del pube. Libero e vagabondo come tutto quanto è lei. Il giorno seguente, la zia Rosa guardò sua sorella come se la vedesse per la prima volta. Credo di cominciare a capirti, disse. Amen, rispose la sorella, accostando il viso splendente per darle un bacio, di quelli che le donne innamorate regalano perché non possono più trattenersi. Amen, disse Rosa e si mise a cullare il proprio sogno. Paulina Trasloheros aveva 20 anni quando conobbe Isaac Webelman, un musicista che si era fermato a Puebla in attesa di notizie dai suoi parenti ebrei di New York. Veniva dalla Polonia e dal Sud America ed era un uomo diverso da quelli tra cui era cresciuta Paulina. Un uomo con il sorriso di una donna e gli occhi di un vecchio, con una voce da adolescente e mani da pirata. Era capace di entusiasmarsi come un bambino e di allontanare l'allegria come la chiglia di una nave fende l'acqua. Era affascinante e inafferrabile come la sua musica preferita, alla quale attribuiva un numero infinito di virtù, oltre alla principale, chiamarsi ad essere incompiuta. In realtà, disse a Paolina, poco tempo dopo averla conosciuta, i finali sono indegni dell'arte. Le opere d'arte sono sempre incompiute, chi le produce non è mai sicuro di averle terminate. Succede lo stesso con le cose migliori della vita. In questo, quantunque fosse tedesco, aveva ragione Goethe, tutti gli inizi sono belli, ma bisogna fermarsi sulla soglia. Come si fa a sapere dove finisce la soglia? Domandò Paolina, pensando che se si trattava di fare gli intellettuali, non vedeva perché avrebbe dovuto essere da meno. Quindi, dirigendosi verso il pianoforte, cominciò a fischiare l'aria principale della settima sinfonia di Schubert. Webelman aveva fama di grande musicista e non appena arrivato a Puebla si era subito fatto un gran numero di alunni, perché i cittadini di Puebla provavano una smisurata venerazione per tutto quanto fosse straniero. Ogni volta che arrivava un maestro da fuori, nei primi 3 giorni della sua permanenza otteneva decine di alunni. La cosa difficile era conservarli. Il musicista Webelman si presentò come un maestro di piano, violino, flauto, percussione e violoncello. Trovò alunni per tutti gli strumenti, perfino un certo Victoriano Alvarez, che si cimentò con le percussioni prima di convertirsi alla politica, quale sistema più efficace di fare rumore. Paulina Trasloheros suonava il piano con molta più abilità ed eleganza di qualsiasi altra alunna. Non per niente suo padre l'aveva rinchiusa nella sala al piano di sopra tutti i pomeriggi della sua infanzia. Da principio, stare lì a fare scale per ore e ore era soltanto un obbligo e una noia mortale, però in seguito si affezionò a quella stanza. Si abituò ai mobili lucidi e imponenti sistemati nella sala, in attesa di visite che non sarebbero mai venute. Si abituò allo scialle di seta sulla coda del piano, ai ventagli incorniciati, a San Giovanni Battista che la guardava dalla porta e ai quadri dei paesaggi remoti che presiedevano le pareti. Le piaceva passare il tempo lassù, lontana dal trambusto della casa, immersa in quell'atmosfera del secolo scorso dove si concedeva le più moderne fantasie e delucubrazioni. Isaac Webelman arrivava fin lì tutte le sere con la sua incompiuta, dalle 6 alle 8. Gli piaceva fare discorsi e alla zia piaceva ascoltarli. Una volta si mise a ridere nel bel mezzo di una dissertazione sul perché Mozart nella sinfonia concertante avesse optato per un Mi bemolle maggiore invece che per un Re minore. «Hai una bella immaginazione», gli disse grata. Aveva vissuto per tanto tempo tra verità razionali o inconfutabili che le odiava. «Oh, per meglio dire, tu sei un'incredula», rispose Isaac Webelman. «Ridammi quel re che sembrava un po' tirato via». La zia Paolina obbedì. No, non così. Così mi stai dimostrando che sai essere precisa, abile, ma non un artista. Una cosa è fare suonare uno strumento e un'altra, molto diversa, è fare musica. Nella musica deve esserci magia e la magia dipende da altri trucchi, ma più che altro da buoni impulsi. Guarda, le disse passandole un braccio intorno alla vita, tu vuoi suonare questo re con più enfasi, ma non sai come. All'apparenza non hai altro per farlo che un dito e un tasto, ma con il dito e il tasto non produci altro che un rumore. Il resto lo devi tirar fuori dalla testa, dal cuore, dalle viscere, perché è proprio lì che si trova il suono che desideri. Una volta che lo sai, non devi far altro che tirarlo fuori. Tiralo fuori! La zia Paolina obbedì ipnotizzata. Il pianoforte della nonna suonò il solito per Elisa, come non aveva mai fatto prima. Sta imparando, disse Webelman seduto accanto a lei, e la guardò come fosse Elisa in persona. Paolina Trasloheros sentì un brivido correre lungo la spina dorsale. Quell'uomo era un mostro, un eccesso, un abuso. Per esorcizzarlo avrebbe commesso una sfilza di peccati dei quali non si pentì mai, neppure quando lui decise di tornare a New York, perché quella era la strada per il successo e il successo non si poteva barattare con la smania che sarebbe stata la vita di un grande musicista impantanato in una sala di Puebla per colpa di una cosa tanto eterea come l'amore. Tu hai sempre saputo qual è la mia sinfonia prediletta, disse Webelman, percorrendo per l'ultima volta la schiena di Paulina Trasloheros, con l'esorcismo della sua mano audace e impudente. Lo saprò sempre, rispose lei, allacciandosi il corpino e cominciando a rivestirsi. Il musicista se ne andò ed ebbe il successo che cercava, tanto successo che lo si sentiva nominare dappertutto. Paulina Trasloheros si sposò ed ebbe figli e nipoti. Nella sua vita oltrepassò più di una soglia, ma non poté mai evitare di sentire un brivido freddo alla schiena ogni volta che qualcuno menzionava quel nome. Che cos'hai, nonna? Domandò a una delle sue nipoti quando la vide rabbrividire udendo i primi accordi della settima di Schubert uscire dal giradischi. Erano passati 40 anni dal pomeriggio in cui aveva conosciuto Isaac Webelman. Il solito tesoro, ma questa volta deve essere colpa di un virus perché ora tutto è di origine virale. Poi chiuse gli occhi e si mise a canticchiare, febbrile, adolescente, la musica incompiuta di tutta la sua vita. Ancora giovanissima, la zia Eloisa decise di dichiararsi atea. Non le fu facile trovare un marito che fosse d'accordo con lei, ma alla fine trovò un uomo di sentimenti nobili e modi gentili, al quale nessuno aveva rovinato l'infanzia con il timore di Dio. Insieme crebbero i propri figli senza religione, battesimo né scapolari, e i figli crebbero sani, belli e coraggiosi, anche senza quella tranquillità che deriva dal sapersi protetti dalla Santissima Trinità. Soltanto una delle figlie credette di aver bisogno dell'aiuto divino e durante gli ultimi anni della sua adolescenza cercò conforto nella chiesa anglicana. Quando venne a sapere di quel Dio e degli inni che altri gli dedicavano, cercò di convincere la zia Eloisa di quanto potesse essere bella e necessaria quella fede. Ah, figlia mia, le rispose sua madre accarezzandola mentre parlava, se non ho potuto credere nella vera religione, come ti viene in mente che possa credere in una falsa? Era già tardi e la zia Mercedes continuava a cercare chissà che cosa nel corpo dell'uomo che riconosceva come l'amore della sua vita. Si conoscevano fin da giovani, avevano sempre saputo di essere fatti l'un per l'altra, ma chissà come ad un certo punto l'avevano dimenticato. Spesso lui perdeva tempo a deplorare quello che considerava un errore imperdonabile. La zia Mercedes però gli diceva sempre che le cose non sarebbero potute andare diversamente, perché anche se ormai nessuno voleva crederci, il destino è il destino. Molto tempo dopo essersi sposati, con più o meno fortuna, si rividero a una di quelle feste in cui la noia spinge a inventarsi un altro amore. Una di quelle feste piene di passodoble e fumo di sigaro, che inevitabilmente finivano in oziose dispute fra sedicenti arabi e spagnoli. Gli spagnoli erano arrivati a Puebla 4 secoli prima, gli arabi 80 anni prima, così che i loro discendenti in realtà non erano che poblani in lite. Si guardarono da lontano, si avvicinarono, infine si incontrarono al tavolo di alcuni spagnoli che sembravano intenzionati a fasciare qualche sedia sulla testa degli arabi seduti al tavolo accanto. In mezzo a quel caos persero le parole, tornarono ad adornarsi di gesti, si videro uniti senza rimedio e senza fretta fino a chissà quando. Prima che avesse inizio la rissa, abbandonarono la festa per riprendere la rotta che avevano lasciato in sospeso 12 anni prima. La trovarono e si fecero vecchi continuando a cercarla ogni volta che la vita si faceva troppo stretta. La zia Mercedes aveva sempre paura che ogni incontro fosse l'ultimo, per questo le piaceva chiacchierare, per trattenerlo dentro di sé perché non le sfuggisse del tutto quando tornava a casa sua con il corpo placato, per potere, nell'imprevedibile lasso di tempo che le avrebbe separate, ricostruire com'era non solo con lei, ma anche in tutte le circostanze della vita. Ogni volta si faceva raccontare qualcosa. Apprese così perfino di che colore erano le copertine dei suoi quaderni in prima elementare, quanto costavano le mele col peperoncino che comprava all'uscita di scuola e perché gli sarebbe piaciuto tanto che lei si chiamasse Natalia. Un pomeriggio, ormai quasi sera, i sensi della zia Mercedes Quadra erano accesi e volle sapere com'era stato per lui quello che gli uomini facevano per la prima volta nella 90ª strada. Lui non aveva mai parlato con nessuna donna ed esitò a iniziare il racconto. Ma la zia Mercedes gli passò la mano sulla schiena come fosse un cavallo e a poco riuscì a farlo parlare di quel ricordo, così come a volte lo faceva spogliare nuovamente quando si erano già rivestiti ed erano sul punto di andarsene. La 90ª strada era un letamaio dove perfino le luci sembravano sudice. Lui vi era andato per la prima volta con alcuni amici, che c'erano già stati 2 o 3 volte, ma nessuno era un esperto. Alcuni c'erano andati una sera con i fratelli maggiori o con uno zio, un altro ce l'aveva portato suo padre perché aveva la faccia piena di furuncoli e a suo parere non c'era modo migliore di curarli. Insomma, erano circa in 7 a farsi coraggio l'un l'altro, storditi da quella clandestinità impudica, morti dalle risate e dal panico. Andarono tutti con la stessa, una tracagnota dall'aspetto sudicio che non smetteva di masticare gomma. Chiese loro se con o senza vestiti. Senza vi costa il doppio, li avvertì. Decisero di rimanere vestiti. Gli è passata qualsiasi voglia quando fu il suo turno di andare, tuttavia andò. La tracagnotta gli masticò la gomma nell'orecchio per tutto il tempo e lui giurò di non tornare. E non tornasti? Chiese la zia Mercedes, cominciando a vestirsi, gelosa come se lo avessero appena raccontato, gli avessero raccontato la più impeccabile storia d'amore. Sì che tornai, disse lui. Quella sera stavo già rubando dei soldi a mia madre per tornarci. E tornai dalla stessa. Come ora? Disse la zia Mercedes, lasciandosi cadere su di lui per morderlo e graffiarlo. Solo che tu non mastichi gomma, rispose lui abbracciandola. Poi le pizzicò le costole per farla ridere. Rimasero così per un momento, per un lungo momento, e risero, risero, finché finirono per piangere. La zia Veronica era una bambina dagli occhi profondi e dalle labbra sottili. Capiva tutto al volo e a scuola il tempo non passava mai. A volte la mettevano in castigo con la faccia al muro o le facevano cucire all'orlo dell'uniforme che si era strappato saltando. Il pomeriggio finalmente poteva giocare con la sua gatta Cassiopea, un animale dallo sguardo legale e l'atteggiamento sdegnoso, in contrasto con le sue striature grigie e il suo pelo ordinario. Più o meno quando smise di mettere cuffiette a Cassiopea e la trasformò nella mascotte ideale per arrampicarsi sugli alberi, la zia Veronica scoprì la notte e le sue strane tentazioni. Dalla cima di un ramo passava con tutti i suoi fratelli a una tinozza e di lì alla cena e al letto. La zia Veronica non racconta esattamente come cadde nel giorno, gioco notturno che associò all'ineffabile sesto comandamento, forse perché non era mai stato chiaro ed era grande, suggestivo e oscuro come la notte stessa. A ogni modo smise di confessarci e comunicarsi il primo venerdì di ogni mese. Nessuno si concedeva simili lussi nella piccola comunità della sua scuola. Sicuramente pensava lei perché nessuno si concedeva quegli altri lussi. Le portarono alla messa alle 11. Attraversarono il Paseo Bravo con le mantelline sulle spalle, in fila per due, senza il permesso di guardare le gabbie dei macachi con i loro sorrisi osceni o alzare lo sguardo fino alla cima della ruota della fortuna e lasciarlo lì a girare. La zia Veronica approfittava sempre del tragitto per rompere il digiuno con una gomma da masticare, tre noccioline o qualsiasi cosa che portasse a un castigo meno grave della scomunica per aver fatto la comunione con il sesto comandamento che le bruciava in tutto il corpo. Ma dopo averlo obbligata quattro volte a riempire un intero quaderno con "Non devo rompere il digiuno", la sua maestra non la perse di vista durante il percorso e fece in modo che non si mettesse nulla in bocca. Allora la zia Veronica disse di non essersi confessata e andò a piazzarsi in fondo alla fila più lunga davanti al confessionale. Per sua fortuna c'erano molte bambine ansiose di confessare le solite cose, bugie ai genitori e litigi con i fratelli. Lei cedette il suo posto cinque volte e quando arrivò l'ora della comunione si era liberata del confessionale per mancanza di tempo. Per un anno intero riuscì a cavarsela con trucchi simili, ma perfino nella sua audacia immaginava che prima o poi sarebbe rimasta a corto di espedienti. Per questo motivo fu felice di sentire che era arrivato alla parrocchia del suo quartiere un pretino nuovo che veniva dalla montagna. Il pretino parlava lo spagnolo con difficoltà e la sua testa spettinata le ispirò fiducia. La chiesa di Santiago era una mostruosità di gessi dorati e santi tutti scheggiati. La solita miscela di vecchi ricchi ed eterni poveri si ammucchiava sui suoi democratici e luridi banchi. I confessionali erano di legno lavorato e avevano tre porte. Da quella di mezzo entrava il sacerdote, mentre le altre due nascondevano un inginocchiatoio sotto l'unica finestrella, una grata che dava direttamente sull'orecchio del confessore. Lì le bambine si inginocchiavano, appoggiavano la bocca contro la pestilenziale grata e si scaricavano la coscienza. Alla fine ricevevano la loro dose di Ave Marie e tornavano inquiete come prima a litigare con i fratelli e a depredare la dispensa. La zia Veronica scoprì che il nuovo venuto occupava il confessionale proprio di fronte a quello dell'eterno padre Cuspinera, che l'aveva battezzata, le aveva dato la prima comunione e che le pizzicava le gote nell'atrio ricordandole di portare i suoi saluti alla mamma. Non poteva permettersi di oltraggiare le orecchie di padre Cuspinera, il rauco e rotondo monsignore, prelato domestico di sua santità, che era come un parente senza figli, uno zio, e si dava da fare per costruire una chiesa da dedicare alla Madonna del Perpetuo Soccorso, con la stessa ostinazione con cui lei persisteva nei suoi peccati notturni. La cosa migliore, penso ancora, era il nuovo venuto, così tutto sarebbe rimasto tra sconosciuti. Entrò nel confessionale. Recitò in fretta e furia l'atto di dolore e disse: "Ho peccato contro il sesto. Da sola o in compagnia?" le domandò il nuovo vicario. Soltanto allora la zia Veronica scoprì che quella cosa si poteva praticare in compagnia. "Chissà come sarà?" si chiese mentre rispondeva: "Da sola." Era così sorpresa che lasciò perdere la disobbedienza e le altre piccolezze e disse soavemente: "Nient'altro, padre." Quindi ottenne la sua penitenza, uscire dal confessionale, recitare un'altra volta l'atto di dolore, quindi andarsene a casa fermandosi di fronte a ogni palo che avesse incontrato per dargli una zuccata al suono di un salve regina. Non avrebbe potuto immaginare penitenza più orribile. Era disposta a qualsiasi umiliazione, purché fosse clandestina come il suo peccato, ma sbattere la testa contro i pali e fare le risate dei suoi fratelli le sembrava anche peggio che andare a spiattellare tutto a padre Cuspinera. Lo guardò seduto nel confessionale di fronte con la sua aria da bambino annoiato, stufo del pomeriggio uguale a tutti gli altri, mentre sonnecchiava tra una beghina e l'altra. Improvvisamente spinse la porta davanti a sé e guardò la fila di donne che aspettavano il proprio turno. "Tutte voi? Vi siete già confessate ieri? Se non avete nulla di nuovo da raccontarmi, inginocchiatevi che vi do l'assoluzione." Senza alzarsi in piedi, cominciò a benedirle, mormorando qualcosa in latino. Le mandò quindi a casa, riducendo il proprio compito di confessore alla breve fila di uomini che andarono a inginocchiarsi di fronte a lui. Quando ebbe terminato con l'ultimo, udì la porta delle donne aprirsi piano. Sentì un corpo leggero cadere sull'inginocchiatoio e un alito giovane contro la grata. Sospirò mentre ascoltava l'atto di dolore recitato da una voce che suonava come il cristallo dei suoi bicchieri tedeschi. Ho peccato contro il sesto, disse il suono sul punto di incrinarsi. Non ci fu bisogno di altro per farlo alzare dalla sua sedia e andare alla porta accanto. L'aprì ed ecco apparirgli la snella figura della zia Veronica, con i suoi enormi occhi scuri, la sua bocca come una provocazione, il suo collo lungo, i suoi capelli corti. Tu, bambina, disse padre Cuspinera con la sua voce da campanile, non sai quello che dici? La prese quindi per mano, la mise a sedere accanto a sé su un banco vuoto, le pizzicò le guance paffute, le batté la mano sulla spalla, sorrise dal fondo del suo casto passato e le disse: Dà un'occhiatina al Santissimo Padre e vattene a dormire. Domani farai la comunione, che è il primo venerdì del mese. Da allora la zia Veronica dormì e peccò come l'angioletto di sempre.